auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i vostri giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che è un anno fantastico per tutti, forza Udinese. Tutti convocati. E siete tutti convocati in questa puntata della settimana dopo Natale per fare un po' i conti su quelli che sono i temi di questa prima fase della stagione del calcio italiano e non solo. Perché ci piace spaziare, vorremmo parlare in quest'ora di giovani, vorremmo parlare di progetti, vorremmo parlare di novità tattiche, anche di difficoltà, ad esempio per i portieri, quante ne abbiamo viste in questa prima fase del campionato, di parate mancate. Lo facciamo con Enzo Bucchioni, direttore del QS, che saluto. Buon pomeriggio Enzo. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Ciao. E soprattutto all'inizio, perché noi vogliamo partire, Enzo, con quello che in un campionato che tutti hanno detto è stato il campionato della crisi, è l'aspetto che ci è piaciuto di più, che è quello dei giovani. Ne abbiamo visti tanti di classe 92 o anche più giovani farsi vedere, farsi notare, essere già giocatori importanti, ad esempio El Shaarawy nel Milan. E allora sai chi abbiamo convocato? Abbiamo convocato Arrigo Sacchi, che è il responsabile dell'attività giovanile per la Federcalcio. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo ragione quando diciamo che è forse uno dei pochi aspetti belli di questo inizio di stagione, eh? Cioè il fatto che la crisi abbia lasciato degli spazi aperti e i giovani li stiano occupando? Beh, se è stata la crisi vuol dire che non progrederemo. Non è una bella notizia. No, deve essere una volontà, deve essere una cultura, deve essere farci capire che se non ci fosse un ricambio generazionale di alto livello nel mondo, questo sport scomparirebbe. Però Arrigo, l'Italia, che è uno dei paesi protagonisti di questo sport, almeno nelle vittorie, dovrebbe avere questa conoscenza e questa ambizione di essere una delle artefici nella creazione di nuovi talenti. Enzo. Sì, Arrigo, ciao, sono Enzo. Ciao Enzo. Però un po' dobbiamo ringraziare da questa crisi, perché è faticoso fare quel processo che dicevi tu. Io sono completamente d'accordo, è faticoso fare un processo culturale in tempi rapidi. L'Italia non è pronta. La crisi ha aiutato, ha dato quella spinta magari anche per riflettere, per capire. Un anno fa eravamo qui a dirci El Shaarawy non è maturo, sarà da Milan, non sarà. Poi improvvisamente, ceduto Ibrahimovic, hanno scoperto che El Shaarawy è maturo, quasi per necessità. E quindi benvenga la crisi. Se produce questi effetti. Sì, il sospetto è che se il Milan non avesse cambiato strategie dal punto di vista economico, ad esempio, oggi saremmo ancora qui a ragionare su quanti minuti ha giocato El Shaarawy. Ragionando in questo modo, alla prima avversità scompaiono nuovamente. Quindi noi viviamo sempre sull'emotività, mai sulla pianificazione, sulla conoscenza. L'ignoranza dà più fastidio che la cattiveria. Questo è vero. E purtroppo nel nostro ambito ce n'è troppa, e quindi noi amiamo questo sport, l'abbiamo sempre interpretato in un modo particolare, disconoscendo gli stessi padri fondatori che avevano creato questo sport come uno sport d'attacco, e noi per nostre inculture, l'abbiamo trasformato in uno sport di difesa. Abbiamo vinto molto, ma quasi mai convinto. Nel mondo non siamo amati e neanche imitati in generale. Però abbiamo dei valori, indubbiamente, abbiamo dei valori che devono crescere. Per crescere io credo che sia necessario una cosa prima di tutto, che i bilanci economici delle società siano corretti. Mio padre mi diceva sempre, mio padre era proprietario di un calzaturificio, mi diceva: se i bilanci economici non saranno corretti, tutte le proiezioni saranno negative. E questo è quello che capita nel calcio: quando non hai dei bilanci corretti, punterai sui giovani, che sono un punto interrogativo, o punterai sui giocatori esperti che pensi che siano una certezza, ma l'unica certezza che hanno è quella di devastare completamente i bilanci e mettersi ancora di più nelle mani di loro, anche perché noi consideriamo questo sport come uno sport individuale. e quindi crediamo che il calcio nasca dai piedi dei giocatori, dall'abilità dei piedi dei giocatori. Lei pensi che quando uno fa un discorso così non proprio chiaro dicono ma stai ragionando coi piedi, e noi pensiamo questo, trascurando che invece il calcio nasce da un'idea. Tutto parte dalla mente. Sì, che non necessariamente è soltanto un esercizio di talento fisico, di talento legato... Allora, guardi, lei prima parlava di Al-Sharawy. Alla gamba, io lo conosco, sì. Lo conosco perfettamente perché è tre, quattro anni che lui gioca nelle nostre giovanili. Ha fatto la 17, ha fatto la 19, ha fatto la 20, la 21. È un ragazzo che si è trasformato nel tempo. Quindi grandi meriti bisogna dare agli ambienti dove è stato, agli allenatori che l'hanno allenato. Questo era un talento che, come un po' la maggior parte dei talenti, con molte controindicazioni. Giocava non in modo continuativo, quasi mai con la squadra, quasi mai per la squadra, quasi mai a tutto campo e quasi mai a tutto tempo. Risultato, non ne usufruiva delle sinergie che sono un moltiplicatore enorme. Sì. La sua trasformazione è stata questa, che nel tempo questo ragazzo si è trasformato totalmente. Oggi è un giocatore che gioca a tutto campo, a tutto tempo, con la squadra e per la squadra, e il suo talento si è espresso in modo enorme, in un ambiente anche positivo e con un allenatore che, Allegri, ha fatto sicuramente un buon lavoro. Ha fatto certamente il suo lavoro. Galliani lo ha paragonato, Enzo, a Neymar. Ha detto: a 20 anni io giocatori così forti vedo soltanto Neymar. Se posso dire la mia, El Shaarawy abbiamo visto che cosa rende in un campionato che comunque è difficile come quello italiano. Neymar, vediamo dei video con delle meravigliose giocate da solista, può essere anche che magari fra un paio di anni ragioniamo che El Shaarawy è più completo, più forte, più utile a una squadra rispetto ad esempio a Neymar, perché poi noi ci innamoriamo anche di queste immagini che arrivano. Ma guarda, l'aspetto che piace di più a me di questo ragazzo è proprio quello che ha detto Arrigo un attimo fa, perché la tecnica ce l'aveva quando aveva 15 anni, l'avevano già vista tutti, 15-16 anni, e proprio la capacità di calarsi con maturità all'interno della partita. Quando un ragazzo di 20 anni con queste qualità torna a aiutare la squadra, e lo vediamo spesso al limite della sua area, con grande intensità lo fa questo, quindi vuol dire che mentalmente ha capito come si gioca a casa. Questo è un passaggio fondamentale nella carriera di un atleta. Ha capito, Enzo, ha capito una cosa che purtroppo non tutti l'hanno capita, che il calcio non è uno sport individuale ma uno sport di squadra, certo. Di cui, dove vi è una trama, un copione, certo. Uno spartito, chiamilo, che più è elevato questo spartito e più il giocatore si troverà a suo agio. È evidente, certo. Che poi la sua abilità potrà migliorarlo o peggiorarlo, sarebbe come in un film, tu hai una grande trama, hai Robert De Niro come interprete o hai un piccolo interprete. È evidente che non te lo qualifica, te lo peggiora, però c'è sempre questa trama. Oggi nel calcio italiano, io ho scritto oggi un articolo sulla Gazzetta, ho detto che gli sceichi non potranno mai comprare una cosa, non potranno mai comprare il gioco, perché il gioco è frutto di cultura, di lavoro, di intuizioni, di sensibilità, di genialità, e questo deve essere il nostro valore. Io avrei piacere che non ci fossero più soldi in Italia. Non siamo molto lontani, noi siamo ancora fra le 3-4 nazioni più che spendono almeno di più nel calcio, e addirittura negli stipendi siamo la prima, quindi o la prima o la seconda, insomma, non è così, ma siamo la prima o la seconda per un semplice motivo, perché se io non sono convinto che il gioco sia il vero leader. Messi, non so se avete letto poco tempo fa, una bellissima intervista. Se uno non è convinto che il gioco non sia il leader, si affida al giocatore. E come sarà il giocatore? Un giovane? No. Sarà certamente qualcuno che possa, anche probabilmente a livello di carisma, di immagine, ricoprire quel ruolo. E quando dai la leadership a questo giocatore, è evidente che lui può chiedere quello che vuole. Non c'è dubbio. Sacchi, abbiamo 30 secondi per il traffico, poi ripartiamo da qui. Traffico. Tutti convocati. Intanto 800 24 00 24 è il numero sempre aperto per chi vuole intervenire in Tutti i Convocati. Io ringrazio Franco Piantanidea in redazione, Carmelo Lauricella per la parte tecnica. Siamo con Enzo Bucchioni, direttore del QS, e con Arrigo Sacchi, che ha lanciato prima, secondo me Enzo, una provocazione. Ha detto gli sceicchi non potranno mai comprare il gioco. È Sacchi ed Enzo un riconoscimento per noi, però, ad esempio, che gli sceicchi si affidino ad allenatori italiani, Mancini, Ancelotti, come la dobbiamo leggere? La dobbiamo leggere in questa direzione, perché non possono comprare il gioco, però possono comprare i cervelli e che il gioco portano, che il gioco possono insegnare, che il gioco possono portare anche dove il calcio non c'è ancora. Quindi è un processo culturale che loro cercano di fare, perché con i soldi non si fa assolutamente nulla, non bastano, è soltanto questo. Ha ragione perfettamente Arrigo. Questa è la realtà del nostro calcio, fortunatamente, perché ci portiamo dietro 100 anni di cultura, a volte sbagliata, come diceva Arrigo, a volte in una strada diversa da però è una grande storia che non può essere cancellata, che va valorizzata, probabilmente va corretta negli errori, però c'è sicuramente, va ampliata perché noi siamo sempre un popolo che pensiamo sempre di essere arrivati, invece non è così. Il calcio si evolve velocissimamente per rimanere sempre al top dell'attenzione della gente, e quindi noi dobbiamo aggiornarci, evolverci, rinnovarci, sperimentare, credere di più in un'organizzazione, nella pianificazione, avere più pazienza. Se i giovani perché non venivano, ma ancora adesso, perché non confondiamoci, la Gazzetta fa una media sui giovani italiani e i giovani stranieri. Sì, allora, perché poi tanti di questi sono stranieri in realtà, non sono italiani. Allora, noi siamo ancora... Dunque, intanto, l'anno scorso la FIFA ha sanzionato che i club più vecchi d'Europa erano quelli di Cipro e noi secondi. Avevamo solo Cipro che ci superava come età. E c'è un motivo. In un ambiente così controverso, così isterico, così polemico, così ricco solamente di scandali, purtroppo, è evidente dove, se tu perdi una partita, sei già quasi all'esonero. È evidente che gli allenatori si cautelano andando sul giocatore esperto, è evidente che le società si cautelano andando sul giocatore esperto. Chi sa vive nel futuro, chi non sa vive nel passato, e noi purtroppo abbiamo dimostrato di vivere più nel passato. Oggi abbiamo per necessità, e io spero non solo, anche per una evoluzione che mi auguro abbia toccato un po' tutti i club, abbiamo parecchi giovani, anche italiani, che stanno giocando. L'altra domenica successe una cosa straordinaria, che El Shaarawy trascinò il Milan con 2 gol. Destro riportò la vittoria alla Roma con 2 gol. Paloschi col Chievo fece 3 gol. Abbiamo segnali importanti anche dagli italiani. Bologna fece gol e vinsero. Sono segnali importanti che però possono essere anche smentiti entro breve. E quello che uno deve... allora guardi, io ho fatto l'allenatore per tanto tempo. Chi fa giocare i giovani sono sempre quegli allenatori. Sono quelli che sono convinti di avere un'idea importante e quindi vanno a prendere i giocatori più idonei per realizzarla. E i giocatori più idonei sono i giovani, perché sono quelli più ricettivi, che apprendono con più facilità, che sono più generosi, che hanno più energie, che hanno più entusiasmo. E quindi Arrigo, stiamo parlando di Zeman. È un bene per il calcio italiano, al di là poi dei risultati, al di là che prende tanti gol e poi che è un personaggio controverso. Sono allenatori che fanno giocare i giovani. Non è un caso che noi con l'Under 21 l'anno scorso abbiamo portato via 4-5, cioè portato via, giocavano già con noi per la verità, prima che arrivasse anche Zeman, però si sono valorizzati con Zeman e giocavano nell'Under 21, Romagnoli, Capuano, Verratti, Insigne, Immobile. Quindi che ci fossero degli allenatori così. Purtroppo troppi allenatori, per paura di perdere il posto, gli allenatori italiani in generale sono molto preparati, ma quasi tutti sono più preparati a gestire che a creare, che a insegnare, sperimentare. Arrigo, ma siamo tutti d'accordo su questo. Però cosa può fare il calcio italiano? Di chi sono le responsabilità e come correggere questa tendenza? Dai bilanci economici. Finché non ci saranno i bilanci economici in parità e finché noi andremo alla ricerca del presidente stupido, del ricco scemo, che detta soldi e che venga poi dopo 2 anni che non ha mai visto una partita a dare delle lezioni di calcio a tutti, finché andiamo a cercare questi non abbiamo capito nulla. Le società, i club, per l'amore che abbiamo noi nel calcio, possono sopravvivere con le proprie energie, devono solo organizzarsi. Noi non abbiamo sfruttato il marketing come succede in altre nazioni, non abbiamo sfruttato gli stadi. Abbiamo margini di crescita dal punto di vista economico. Abbiamo speso tutti i soldi solamente sul giocatore, punto e basta. Tu pensa, posso farvi un piccolo esempio, io arrivai al Milan e comprammo Gullit. Gullit giocava nel PSV Eindhoven, proprietario era la Philips, una multinazionale, sì. Lo pagavamo mi pare un 10 miliardi. Una decina di miliardi di lire. Di questo genere. L'anno dopo andammo a fare un amichevole, loro intanto nel frattempo senza Gullit avevano vinto la Coppa d'Olanda, il campionato olandese e la Coppa dei Campioni, parlo di una cittadina di 120.000 abitanti, la Coppa dei Campioni. E io chiesi con loro, ma i soldi di Gullit li avete investiti su dei giocatori? No, su quella tribuna che lei vede, abbiamo costruito la tribuna con quei soldi. Questa era la multinazionale della Philips, 1980. E noi non ci siamo ancora, mi pare di capire, nemmeno vicini, così come mi sembra di capire, Sacchi, che siamo lontanissimi dal giorno in cui anche noi potremo fare una prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, QS, un qualunque quotidiano sportivo italiano, raccontando di una squadra importante come è stato il Barcellona qualche settimana fa, in campo con 11 canterani su 11, e fa niente se un paio non sono proprio spagnoli, però la cultura, il modello da seguire è proprio quello. Guardi, qui è successo questo, le devo dire, che una volta si credeva un po' di più nei settori giovanili e si investiva un attimino di più. Purtroppo non c'era una continuità di lavoro. Noi anche nel calcio siamo un po' come nella vita di tutti i giorni. Quindi io vivo in un piccolo centro dove accanto a una casa colonica c'è una casa esotica, un'altra tirolese. Ecco, e anche nel calcio siamo così. Allora cosa vuole dire questo? Cosa significa? Che non diamo una continuità di lavoro, cosa che invece il Barcellona prima di tutto fa. Hanno preso sempre degli allenatori, loro credono nel calcio totale, vanno a prendere gli allenatori che possono insegnare questo. In più gli fanno loro dei corsi interni e quindi producono. Noi producevamo più per volontariato che per il resto, però producevamo abbastanza. Finché a un certo momento con la legge Bosman le società ebbero questa brillante idea, la maggior parte. Possiamo andare a comprare chiunque, è inutile che spendiamo dei soldi nei settori giovanili. E fu un disastro, e fu un disastro anche perché ci potevano venire degli spendaccioni o della gente più ricca di quanto fossimo noi. Come poi è accaduto col passare degli anni. Oggi stiamo cercando di recuperare, però investiamo ancora poco, tanto per dare delle cifre. Il Barcellona e Real Madrid investono qualche cosa come 45-50 milioni di euro all'anno. Da noi la società che investe di più, secondo me, arriva sui 10-12 milioni, non di più, ma in generale si spendono oltre i 3 milioni la media. Dunque, lei capisce che c'è già una convinzione diversa in Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Austria, ci sono le academies sarebbero dei collegi dove mettono i ragazzi del settore giovanile che alternano scuola a calcio, risultato in una settimana fanno praticamente il doppio del lavoro che noi facciamo normalmente. E io immagino, Sacchi, che lei abbia visto il progetto del campus del Manchester City, 400 ettari proprio che verranno costruiti e verranno completati nel 2014, proprio con questa idea, perché forse anche gli sceicchi si sono accorti che c'è bisogno di investire su qualcosa che resti. Abbiamo ancora un vantaggio, guardi, le devo dire, sugli inglesi, che a parer mio ancora loro sono rimasti a un calcio non così evoluto come per esempio la Spagna. La Spagna, sono amico con Guinness, che è il responsabile di tutte le nazionali giovanili, è il mio equivalente in Spagna. e gli ho fatto i complimenti perché sono diventati campioni d'Europa con la... Campioni di tutto. Campioni d'Europa con la 19, con la 21 e con la 17 negli ultimi 10 anni hanno vinto 6 volte il campionato europeo. Dico, ma in Italia... giustificano sempre la vittoria della Spagna perché c'è Xavi, Iniesta. Dico, tu mi devi spiegare come fate a truccarli e a farli giocare in tutte le categorie. e anche Messi magari, dai. Sì, è piccolino, ogni tanto mette anche Messi. È una scuola di calcio, uno stile di gioco che noi purtroppo non abbiamo. Con le nazionali stiamo cercando, col poco tempo che abbiamo a disposizione, con molti problemi. Tanto per dire, abbiamo fatto un amichevole con la nazionale della Lega B e delle squadre di Serie B, che abbiamo chiamato dei ragazzi, non ce li hanno mandati perché sabato avevano una partita, giocavamo il martedì. Arrigo, ma diamo una speranza. C'è qualcuno in Italia che lavora bene in questa direzione? Abbiamo un minuto, Sacchi. Dai, chiudiamo con una speranza. Allora, facciamo i nomi. Sta lavorando benissimo su tutti i livelli. Sta lavorando benissimo sia a livello giovanile, sia in prima squadra. La Juventus oggi gioca un calcio che è diverso da come giocava. È il collettivo, non ha dei top player, ma non ha bisogno. Il top player è il gioco. Zeman e altri allenatori sono veramente bravi ad insegnare. Posso chiederle se Conte le ricorda un po' Sacchi per l'intensità che mette nell'approccio al lavoro, alla partita e anche poi per quello che si vede? Guardi, anche nella risposta in campo è molto limitativo dire l'intensità per Conte. No, ma però è la qualità che mette. Sì, ma non era un modo per sminuire. Io sono testimone, Arrigo. Un cugino che un mio amico che è un direttore d'orchestra, gli ho detto: ma che differenza c'è fra te e Muti? E dico, quando suonate Beethoven è quello per tutti, ma dice, a parte che ci sono delle varianti, se lui ha 200 orchestrali, anche chi batte i piatti, che è il meno importante, un po' più forte, un po' meno forte, un po' prima, certo, un po' dopo. Però io devo dire sensibilità e cultura. Devo dire, Arrigo vede lungo, perché io sono testimone di una telefonata intercorsa fra noi due, c'era anche Conte 4 anni fa, quando doveva ancora venire Conte, e ricordo benissimo che formando. Arrigo mi disse: questo diventerà un grandissimo allenatore, allenerà la Juventus, e quindi ci ha visto lungo. Fidiamoci di Arrigo. Assolutamente. Arrigo Sacchi, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, Arrigo. Ciao Enzo. Ciao. Grazie da Arrigo Sacchi. Noi ci fermiamo, ci sono le informazioni di borsa, poi torniamo e continuiamo a fare questo viaggio nei temi che ci propone il campionato e che ci sta proponendo il calcio. Ad esempio questa rivoluzione anche in panchina, perché noi tutti vecchi li abbiamo rottamati, li abbiamo mandati a guadagnare bene altrove e ci siamo tenuti giovani, ne parliamo. Tutti convocati. E almeno Enzo Bucchioni qualche speranza ce l'ha data, però Sacchi, la Juventus, sì. Zeman e Sharawi, mi sembra che straveda per il Sharawi, al di là dei gol, di quello che sta facendo in questi primi mesi, mi sembra che Arrigo Sacchi straveda per il Sharawi così come stravede per Conte. Sì, ma ha ragione, perché c'è il ragazzo dietro, questo che ha visto Sacchi, perché non bastano le qualità tecniche, lascia perdere la cresta, no? Perché magari uno vede il Sharawi, sì, questo è uno dei tanti, credo che quello gli piaccia meno. Questo credo che gli nuoccia anche all'immagine, perché uno pensa che è uno dei soliti calciatori con la Ferrari, con la cresta, con la velina, con no, è diverso, ma lo dimostra sul campo, l'applicazione che mette nell'inserirsi nella squadra. Ragazzino è diventato un punto di riferimento non soltanto per le giocate, perché giocare è una questione naturale. Sì, ma proprio come approccia alla partita. Quindi, questi sono è anche giocatori. Leader secondo me, perché comunque è riconoscibile in campo e ho l'impressione che il Milan anche nei momenti di difficoltà si sia aggrappato del Sharawi, al di là delle reti che hanno regalato dei punti importanti. Ma perché ha già una maturità nell'interpretare la partita, ma anche una maturità propria. Io l'ho conosciuto questo ragazzo e ne conosciamo tanti. Parla come Del Piero, come il primo Del Piero. A me sì, sentirlo parlare ricorda il primo Del Piero che gli davi 25-27 anni anche se ne aveva 20. Sì, ma infatti se lo dico io non conta. A noi l'ha detto in un'intervista Marcello Lippi. Ecco. Chi ti ricorda il Sharawi? Del Piero. Siccome lui Del Piero l'ha avuto ragazzino, l'ha fatto fatto crescere, Del Piero è diventato Del Piero con lui, evidentemente è un processo culturale uguale, molto simile. Tra l'altro, Enzo, Marcello Lippi, lo dico agli amici a casa, che sarà nostro ospite domani, perché parleremo di italiani all'estero e lo faremo con due monumenti come Marcello Lippi il e la sua esperienza cinese e Ettore Messina, che è il numero uno assoluto dei nostri allenatori di pallacanestro, che è stato a Los Angeles, è in Russia, è stato a Madrid e sarà, spero, davvero una chiacchierata piacevole. Parliamo degli allenatori giovani, perché secondo me in questa prima parte della stagione comunque ci sono tante promozioni. Ad esempio, io sono colpito favorevolmente da Stramaccioni, al di là poi che compie degli errori, qualche volta non fa giocare la squadra, però stiamo parlando di uno che ha iniziato la stagione con 9 panchine di Serie A alle spalle e mezza stagione di primavera. Io non so che cosa si può chiedere di più a un ragazzo. Mi piace Montella, che si sta confermando. Da questo punto di vista, la crisi, secondo me, che ha mandato fuori tutti i numeri uno delle nostre panchine, anche da questo punto di vista tattico, non è poi stata una cosa di cui dispiacersi. No, su questo sono d'accordo, perché quando arriva una ventata di gioventù di solito ci sono anche delle idee. Però per fare l'allenatore, secondo me, serve anche la cultura. Io sono meno d'accordo. A te non piace Stramaccioni? No, così è un no po', ma dillo, è un po' non ci ascolta nessuno. Ma lo dico, ci arrivo gradualmente. Se ci fosse ancora Arrigo, non so, magari Arrigo con la sua veste di federale si maschera un pochino, lo capisco, ma Stramaccioni è un giovane, hai detto bene tu, ha portato qualcosa, ma cosa dal punto di vista del gioco? Questo mi chiedo. Io mi aspetto un qualcosa di innovativo. Gioca come giocava Trappattoni, senza nulla togliere a Trappattoni, perché erano 20 anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa, quindi era un altro mondo. E Trappattoni poi ha vinto come nessuno, quindi chapeau a Trappattoni. Ora, un ragazzo di 36 anni allena l'Inter e gioca con 8 giocatori dietro la linea della palla, poi uno davanti che è Cassano, che fa il fantasista in venta, è una punta che Milito, i gol l'ha sempre fatti, butti la palla a loro. Sì, però ad esempio è stato capace di imporre la difesa 3, che a Milano era quasi una bestemmia, c'è chi anche più esperto come Gasperini si è bruciato. E poi io ho l'impressione che l'Inter sia un progetto, la qualità deve ancora essere aggiunta probabilmente a questo progetto. Secondo me Stramaccioni è bravo perché ha il coraggio anche di cambiare. Lui ha vinto col tridente, poi ha capito che forse era meglio tirare la coperta un po' più indietro, insomma, i risultati comunque contano, al di là dell'innovazione del gioco. Sì, ma che sia bravo non c'è alcun dubbio, la difesa 3 poi è un modo anche per difendersi meglio. Sì, perché poi è a 5, perché hai due esterni che sono di fatto due difensori. Cioè, mi piace più quando mette Cambiasso come terzo, per almeno l'azione riparte da lì, sul modello del Barcellona, ma insomma non mi addentro in questioni tattiche. Io mi aspetto, io spero che sia un passaggio. Già di buona ha fatto anche giocare i giovani, questo è un punto positivo, anche per un rapporto con i bilanci, come diceva prima Arrigo, perché l'Inter ha speso troppo negli ultimi anni. Sì, era una di quelle che doveva assolutamente rientrare. Il bilancio è sicuramente positivo, però io mi aspetto che questo passaggio da un gioco vecchio e normale, e se vuoi utilitaristico e banale, si passi a un gioco vero. Perché come gioca l'Inter? A questa domanda io non so rispondere. Ma io credo che l'Inter quest'anno abbia più di una pelle, e probabilmente è questo il pregio di, sì, è questo il pregio di Stramaccioni. Invece, mi piace molto di più Montella. Montella straordinario, ecco. Più formato, con più gavetta alle spalle, cioè, e si vede. E probabilmente anche con una società che è arrivato al momento giusto, al posto giusto, con la Fiorentina che aveva voglia di ricominciare. Sì, è stato scelto dopo uno screening importante, quindi è stata brava la Fiorentina a individuare la persona giusta. Una persona che ha una grande cultura calcistica alle spalle. Forse la differenza con Stramaccioni è che Montella sa cos'è il calcio giocato, è stato un campione, ha vinto, quindi ha portato questa sua cultura del campo. In più c'è una cultura personale che in questi anni ha maturato con lo studio, è un grande studioso del calcio Montella, con un'equipe che si è formato, uno staff di 8 persone con il quale lavora, ha interagito con l'università, quindi c'è tutta una cultura nuova che poi si vede per come gioca la Fiorentina. Quando alla domanda cosa ha portato quest'anno il campionato di novità, l'unica vera grande novità è come gioca la Fiorentina, con questa voglia sempre di occupare la metà campo avversaria, possesso palla. Sì, ha un'anima spagnola, al di là del fatto che ha preso tanti giocatori dalla Liga, tra l'altro facendo anche degli affari importanti, perché c'era il supermercato del Villa Real dove si poteva prendere Zapata oppure prendere quelli che ha preso, sì, la Fiorentina. Io credo che il fatto che la Fiorentina abbia preso quelli lì non sia un caso. Non per imitare il calcio spagnolo. No, ma per mentalità. È per mentalità, perché è un problema di cultura. Voglio imporre il gioco. Il gioco è nato per attaccare, per vincere. Il calcio poi lo puoi fare in tanti modi. E Boniperti diceva l'importante è portare a casa i punti, poi il resto non mi interessa, che è una filosofia che può essere anche accettabile. Alla fine, poi, quando va a guardia l'almanacco, cosa hai vinto? Però c'è anche un aspetto spettacolare. Quando ci diciamo che il calcio deve essere anche spettacolo, dobbiamo riportare la gente negli stadi, dobbiamo andare alla partita per divertirci, e allora io non penso a Stramaccioni, penso a Montella, sinceramente. Sì, non c'è dubbio, esattamente come si pensa ad esempio a Zeman e alla sua Roma, piuttosto che ad Allegri e al suo Milan, per provare a salire, sì, diciamo, di livello in classifica o comunque come notorietà dei personaggi. Su quel podio, anche se non è un allenatore, non è un giovane, io però metto Francesco Totti, che è fuori da tutti questi discorsi, perché poi uno disegna un calcio, sì, bello, che occupa la metà campo, lancia il Sharawi, Zeman lancia tantissimi giovani, ne abbiamo parlato prima anche con Arrigo Sacchi, e poi però arriva Totti e sta facendo la miglior stagione della sua vita. Qui siamo oltre tutti i discorsi che possiamo fare, stiamo qui due ore e ci divertiamo, ci fa anche piacere. Poi arriva uno che si chiama Totti, che va fuori da tutte le regole. Però è il bello. Vive su questo, il calcio vive sui Totti. Se non ci fossero questi campioni, è inutile fare tutte le disquisizioni. Totti è il genio del calcio, ma è anche l'applicazione del calcio, quello che si diceva prima per il Sharawi. Totti non è mai stato fine a se stesso, non è mai stato la giocata, non è mai stato io sono io e non conta nessuno attorno a me. No, anche adesso, a quest'età, potrebbe permettersi di non farlo, è al servizio della squadra, con la sua genialità, con anche il suo impegno fisico, perché io correre Totti come corre quest'anno non l'ho mai visto. Sì, ci facevamo tanti problemi anche sull'utilizzazione da esterno quest'estate, ricordo in tanti avevano previsto per Totti una stagione di lento declino verso la panchina. Totti gioca sempre, segna, corre, è scattato mentalmente, anche è dimagrito, di lui la voglia di calarsi in questo nuovo progetto zemaniano, un calcio più spettacolare, si diverte anche lui, cioè basta vedere il calciatore, lo devi guardare negli occhi, questo me l'ha segnato proprio Sacchi, quando c'è la felicità del giocatore la esprime guardandoti, se il giocatore abbassa la testa e gioca controvoglia, invece Totti quest'anno è la felicità in persona, si diverte lui e fa divertire il pubblico. E questo in un anno, il 2012, che è stato un anno da questo punto di vista importante, di cambiamento. Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, facendo un po' la carrellata anche con ospiti illustri, anche non legati al mondo del calcio, ad esempio come Alex Zanardi, perché il 2012 ci ha portato via tanti campioni di tanti sport, a partire da Schumacher, da Max Biaggi, ha cancellato leggende intere come Lance Armstrong. Nel calcio, in fondo, noi abbiamo visto andare via Del Piero, e non tanto per sua scelta, abbiamo visto quelli del Milan che se ne sono andati, perché il Milan ha cambiato pelle nell'arco di due settimane a giugno, quando Galliani li ha incontrati e gli ha comunicato che era finita, più o meno. Anche troppo forse, ma sì, difatti qualcuno se lo sarebbe tenuto. Perché sarebbe servito in quello spogliatoio per cercare di reggere le fila, perché non si può poi appoggiarsi ad El Shaarawy come se fosse un leader anche all'interno dello spogliatoio. Però pure in una stagione come questa, poi è vero che ci sono alcuni come Totti che ti rubano gli occhi. Io non riesco a mettere un termine o a pensare a un termine alla carriera di Francesco Totti. Mi sembra che sia ancora lontano, poi magari il crollo arriverà improvviso, però mi sembra che non ci siamo ancora. Ma no, non credo che arriverà il crollo improvviso, perché questi sono anche giocatori che sanno gestirsi, altrimenti non arrivi così lontano, non vai così avanti dal punto di vista fisico-atletico. Penso a Maldini, di questa categoria, a Zanetti, di questa razza, ci sono altri precursori, se vuoi, nel comportamento, nel sapere interpretare anche la vita da campione fuori dal campo, fuori dall'allenamento, altrimenti poi il fisico si usura. Quanti abbiamo visti perdersi troppo in fretta perché non facevano la famosa vita da atleta. Qui siamo in presenza di Totti e di tanti altri, Del Piero che sta continuando, Zanetti è un esempio unico, sì, è un monumento straordinario. Io credo te anche lo dico, qui è una questione di cultura. Io credo, te lo dico sinceramente, che Totti, Prandelli poteva portarselo anche in Polonia e Ucraina, perché piuttosto che portare Borini a fare il turista, destro poi scartato, io sinceramente sì, penso che Totti ad esempio mezz'ora, anche solo in quella finale, con una squadra piegata in due dalla fatica, poteva servire. E io credo che Prandelli farà bene eventualmente a pensarci anche in vista del 2014, ma non come un'ipotesi che lui non scarta, perché ovviamente il CT non dice mai che le porte sono chiuse. In teoria le porte sono aperte per tutti, addirittura per Cassano. Figuriamoci, sì. Che invece la storia di Cassano è finita con la nazionale. Sì, assolutamente. Perché è finita anche col gruppo Juve, per sì. tanti motivi. Perché è finita con Prandelli, perché quest'estate in Polonia e Ucraina sono successe delle cose. Però io penso che questo Totti così maturo, bello, completo, rotondo, alla nazionale potrebbe servire. Sì, in teoria sì, poi in nazionale sai benissimo ci sono degli equilibri. Quando se tu porti dentro un campione di questo tipo e di quest'età, forse il gruppo, non lo so, andrebbe visto intanto fra un anno e mezzo è tanto. Fra un anno vedere come sta, perché fra un anno ci siamo, siamo quasi alla vigilia. Che a volte è il gruppo stesso che ti richiede di averli in campo. Nel 2006 il famoso mondiale vinto da Lippi, torniamo a Lippi, poi domani magari lo racconterà meglio lui se ci sarà l'occasione. Totti non era in gran forma, ricorderete, venne da un brutto infortunio, fino all'ultimo non si sapeva. Fece un miracolo a rimettersi in piedi. Non stava benissimo, è stato forse uno dei peggiori dal punto di vista della resa, però mi raccontava Lippi, era la squadra che voleva Totti, perché con Totti in campo le responsabilità erano le sue, comunque gli altri si sentivano sgravati, c'era meno peso sugli altri 10, quindi il campione serve anche a questo, a riportare nella giusta misura i pesi anche psicologici all'interno della squadra. Quindi bisogna tenere conto. Può essere che oggi lo scenario sia diverso. Enzo, ci dobbiamo fermare, ancora traffico, poi torniamo e chiudiamo la nostra chiacchierata anche con un altro ospite. Tutti convocati. E siamo ancora insieme per la parte finale della nostra chiacchierata con Enzo Bucchioni. Ci ha raggiunto Pasquale Marino. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi. Perché stiamo parlando un po' di allenatori, di cose che si vedono in campo in questa prima fase della stagione, e io credo che uno dei tratti distintivi sia la difesa a tre, che è stata sdoganata a Milano fronte Inter. Ci ha provato anche Allegri, a dire la verità, ma è durato 90 minuti, poi gli hanno spiegato che non si può fare. Al Milan no. Al Milan. Però l'aveva riscoperta Conte l'anno scorso, passando dal 4-2-4 alla difesa 3. Mi sembra che da questo punto di vista sia la tendenza tattica del momento, Marino. Ma dipende anche dai giocatori, dalle caratteristiche dei giocatori. Allegri penso che non è che gliel'hanno spiegato, probabilmente ha capito che quando ha recuperato determinati giocatori ha preferito cambiare, ma qua non si tratta di capire, si tratta di avere giocatori adatti per quel sistema di gioco. Ma le piace la difesa 3 come viene interpretata in Italia in questo momento da chi la fa? O è un po' troppo difensiva? Io sono arrivato ad allenare tanti anni anche alla massima serie partendo da questo tipo di atteggiamento, giocavo col 3-4-3, quindi è per questo l'abbiamo chiamata, E di conseguenza se hai giocatori adatti è un sistema di gioco che ti dà una certa densità centrale, quindi nella zona calda, e poi in avvio di azione avere i tre centrali, si può fare un buon possesso palla, si può creare la superiorità numerica partendo da dietro negli altri settori, quindi soprattutto avendo i giocatori che hanno i piedi discreti, insomma, e quindi diventa bello avere quella superiorità numerica dietro che ti consente, soprattutto quando giochi con le squadre che giocano con due punte centrali, e ancora avere una certa superiorità numerica nelle zone calde, come ho detto prima, è una cosa positiva, ecco. Sì. Però ripeto, sempre dipende dai giocatori. Sì, dipende dagli interpreti. D'accordo anch'io. Dipende da come si interpreta dal punto di vista culturale calcistica. Se la difesa 3 serve per fare maggior possesso palla, come diceva Marino, e mi viene in mente il Barcellona, che ha messo al centro un centrocampista che è Mascherano, che fa poi ripartire l'azione, va davanti agli altri due difensori e quindi hai un uomo in più al centrocampo. Questo modello di gioco lo fa la Fiorentina con Gonzalo Rodriguez, che è quello che fa sempre. Sì, non lo fa l'Inter, ad esempio. Lo fa la Juventus con Bonucci, che è sempre il giocatore che fa ripartire l'azione. Ci sono altri che usano la difesa 3, che poi in realtà vanno a 5 con i due esterni che arretrano, e quindi diventa un modello più strettamente difensivo. Ci sono espedienti al sistema di base stesso. C'è il Palermo che mette un mediano che oscilla tra i tre centrali e gli altri due di centrocampo. In pratica va a fare il terzo centrale, all'occorrenza fa anche il terzo di centrocampo, quindi come faceva l'anno scorso la Roma con Luis Enrique e con De Rossi in quel ruolo. Sì, certo. Insomma, ci sono tante interpretazioni, alcuni mettono giocatori più difensivi, altri magari più centrocampisti per privilegiare, diciamo così, l'impostazione da dietro. Sì, poi c'è una certa differenza, scusate, tra avere Asamoah, Lichtsteiner o Isla, sì, come esterni e avere Nagatomo e Zanetti, ma non è una critica per Nagatomo e Zanetti, ma è l'impostazione che evidentemente traccia due modi diversi di approcciare la difesa 3, una più offensiva che spinge più proiettata nell'altra metà campo e una certamente più attenta a ripiegare anche in fase di non possesso palla. E io credo che probabilmente ci sia un abisso, un mare fra i due 3-5-2, anche se poi più o meno lo schema potrebbe essere lo stesso. Sì, un po' la riscoperta anche del libero, io credo, in questa fase, perché il terzo spesso sta staccato. Una volta il libero non potevi neanche più parlarne quando era in voga la difesa in linea, assolutamente in linea con le diagonali. Ora c'è un po' la riscoperta di questo giocatore che ti dà maggiore duttilità. Marino. Magari una volta il libero giocava in braccio al portiere, ora un po' meno. Sì, un po' meno, sì. Adesso certo. Qualche metro avanti. Sì, però. Invece stiamo importando anche quest'altra moda, quella del falso 9, del falso 9. Addirittura Berlusconi è andata a postularla a Milanello, ha detto: a me piacerebbe vedere Boateng falso 9 a fare il centravanti e povero Pazzini, ad esempio, perché non si capisce che cosa faccia nella rosa del Milan in questo momento. Un conto è Fabregas, un conto ecco, è Boateng. Però il problema, Marino, che un conto sono gli originali, un conto sono le repliche. Da questo punto di vista ho l'impressione che noi siamo lontani anni luce, ma io non dico dal Barcellona, ma anche soltanto da una costruzione delle rose che possa far portare in Italia un ragionamento di questo genere? Ma è chiaro che quando si costruiscono gli organici, nel momento in cui vengono meno i risultati, si creano tante soluzioni, l'allenatore cerca di dare delle certezze al gruppo, aiutandosi anche con qualche sistema di gioco che conforma all'organico stesso. Però ripeto, Boateng è un giocatore che ha determinate caratteristiche per fare il trequartista, diciamo, o il finto centravanti, e ce ne sono Robinho, come se è capitato spesso, altre caratteristiche, quindi siamo sempre lì, si è sempre alla ricerca di migliorare, perché magari non c'è mal molto tempo in Italia, no? Noi allenatori, anzi quest'anno abbiamo avuto, cioè i presidenti hanno avuto più pazienza. Sì, da questo punto di vista siamo nettamente avanti rispetto all'ultima stagione, che era stata quella da record, con 17 esoneri, 20 allenatori che si erano alternati. Quando noi siamo fuori, alternati. Quest'anno che sono fuori io, la tendenza è questa. Ma vedrà che nei prossimi mesi, quando si entra nel caldo, sì, io temo che si ritorni alle vecchie abitudini. Ci ripensano, sono un po' buoni perché sono sotto Natale, aspetta, fai passare l'anno nuovo. Ma tra l'altro è chiaro che quando i risultati non arrivano e il tempo comincia a diminuire, aumenta l'ansia, ecco, perché sappiamo bene, soprattutto per le squadre che hanno obiettivi di salvezza, cosa può significare una salvezza, no, in termini di costi, perché è chiaro che i contributi, sì, dei diritti televisivi in Serie A sono di un livello, in Serie B di un altro, per cui magari una squadra si può ritrovare in categoria inferiore con contratti di Serie A. Sì, è un dramma economico prima ancora che sportivo. La retrocessione. E poi si arriva con più facilità ai cambi. Io volevo chiudere introducendo un altro tema, che è quello dei portieri in difficoltà, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questa prima parte del campionato e anche da portieri importanti, portieri bravi. Penso ai gol presi da Goicoechea con la Roma, penso a Viviano e alla sua crisi, penso ai gol incredibili presi da Biati a Napoli, ad esempio. Troppo per dire che sono tutti portieri o scarsi o in uno scarso periodo di forma, mister? Ma purtroppo i famosi palloni dei portieri si notano chiaramente, perché determinano, cioè non si può riparare all'errore del portiere, ecco, quasi sempre, per cui Però anche questo del pallone non è una scusa, perché poi noi abbiamo notato che a volte le traiettorie della palla sono imprevedibili. Girano. All'ultimo momento girano in maniera imprevedibile, è chiaro che in questo senso sono svantaggiate. Poi sono abbastanza leggere, poi se si calcia in una certa maniera con l'esterno, per esempio, le traiettorie assumono, impazziscono, insomma, diventa tutto più complicato. Enzo, perché non si può continuare a prendere di più errori, forse. Certo, non si può continuare a prendere gol da 40 metri e pensare che sia sempre il portiere cieco, perché stiamo parlando di ottimi portieri. Sì, di gran livello. Assolutamente, sì, però io ti ribalto la domanda e ti dico: ma perché non succede a gente come Buffon? Il pallone è uguale. Beh, contro la Juve non tirano mai, ha ragione il mister. Questo potrebbe essere, un tema. Andiamo a vedere tutti i numeri, le statistiche. La Juve è veramente una macchina in questo momento, perché non creano tanto e concedono poco. Certo. Anche tiri dalla distanza. Grazie a Pasquale Marino. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Pasquale Marino, buon 2013. Noi siamo arrivati in fondo, Enzo, alla nostra chiacchierata. Abbiamo 30 secondi, solo per dire che secondo me il 2013 sarà l'anno in cui finalmente invertiremo la tendenza con il ranking europeo. Al di là di quello che tutti scrivono, lo stiamo già facendo. Ma non dobbiamo guardare la Germania noi, perché la Germania per 5 anni è irraggiungibile. Però abbiamo invertito la tendenza. Sì, però guardiamola intanto per come fanno calcio. Non c'è dubbio, no? Io dicevo per i numeri. Sì, abbiamo invertito la tendenza perché è andata meglio nell'Europa League. Cioè le nostre squadre in questi anni hanno perso punti perché ci stiamo credendo di più. Sì, dobbiamo farlo, perché è inutile andare a partecipare a una competizione senza poi mandando poi le riserve, la terza squadra, la quarta squadra. È un problema di calcio italiano che deve essere valorizzato in tutti gli aspetti. Se vai a giocare l'Europa League, credici fino in fondo. Anzi, questo potrebbe essere anche l'anno per vincerla. Anche perché in Champions League non siamo competitivi. Magari la Juventus per arrivare tra le prime quattro. Però dobbiamo fermarci, Enzo. Grazie per essere stato qui. Io ringrazio ancora Franco Piantanida in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Domani Marcello Lippi, Ettore Messina per parlare di italiani all'estero. Appuntamento alle 14.05. Tutti convocati. Grazie. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support. Buon Natale a tutti i tifosi del Manchester City e buon anno.